30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Il Senato degli Stati Uniti ha adottato all'unanimità un pacchetto di nuove sanzioni contro la banca centrale iraniana allo scopo di rafforzare quelle già in vigore contro il regime di Teheran e costringere il paese a rinunciare al suo controverso programma nucleare. I senatori hanno adottato queste nuove misure con 100 voti a favore e nessuno contrario, sotto forma di un emendamento al progetto di legge di finanziamento al Pentagono per l'esercizio 2012. Questo nonostante le riserve dell'amministrazione di Barack Obama, che teme perturbazioni sul mercato del petrolio. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Ecco, quelle che sentite sullo sfondo sono frammenti di una giornata, quella di martedì, che ha segnato un altro passo drammatico nella lunga storia del dossier nucleare iraniano. Le voci sono quelle della folla di studenti, così definita, che assalta il compound, i locali dell'ambasciata britannica a Teheran, una giornata che ha scatenato ovviamente la protesta, la reazione da una parte del Regno Unito, una giornata che ha visto l'Europa riunirsi, e poi vedremo fino a che punto continuare a farlo, per definire una reazione comune. L'Iran dunque torna al centro dell'attualità questa settimana. Stasera ne parliamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti voi. Allora Alberto, il minimo che si possa dire è che questa è una tappa di ormai di una storia lunga. Il dossier nucleare fa parte ormai integrante della scena medio orientale. Quello che è accaduto martedì è una sicuramente delle pagine più plateali. Non c'è dubbio, è una storia lunghissima. In realtà è una storia che risale al 1979, quando la caduta dello Shah prese il potere Khomeini e fu instaurata la Repubblica Islamica. Da quel momento tra l'Iran e l'Occidente è stata una contrapposizione continua, al punto che l'Iran ha sostenuto tra l'altro una guerra lunghissima di 8 anni contro l'Iraq, allora sostenuto dalle monarchie del Golfo e dagli stati occidentali, per impedire appunto che l'Iran estendesse la sua influenza in Medio Oriente. Ebbene, è una contrapposizione di tipo militare, economico, ma è una contrapposizione anche di stampo prettamente ideologico. L'Iran è stata una rivoluzione vera, che piaccia o non piaccia, ha comunque ribaltato tutti i valori che c'erano fino ad allora nella società iraniana, non soltanto quelli interni, ma anche nei rapporti internazionali. E da allora la contrapposizione è continuata. L'Iran vuole in qualche modo dare via libera al suo programma nucleare, si è anche capito, ma era abbastanza evidente che fosse così, che provasse anche a tentare di costruirsi un'atomica. Del resto è circondato da paesi che ce l'hanno, aveva i confini con l'Unione Sovietica, con le ex repubbliche sovietiche che avevano la bomba atomica, dall'altra parte c'è il Pakistan che ne ha una, Israele che è la potenza militare più importante del Medio Oriente ha una bomba atomica, quindi era più o meno presumibile che prima o poi anche gli ayatollah ci provassero. Se poi questa bomba è una bomba più virtuale che non reale, forse è ancora tutto da stabilire. Non c'è dubbio che questo sta creando una contrapposizione ancora più forte, forse si potrebbe arrivare prima o poi anche a un punto di rottura. Ecco, tra poco parliamo di Europa e di come appunto l'Europa, unita o meno, abbia da sempre cercato un ruolo di mediazione, anche perché nella sua natura gli interessi sono divergenti. Prima però vorrei sottolineare come martedì nelle manifestazioni appunto che hanno portato poi all'assalto dell'ambasciata, tra le immagini, tra gli slogan e i nomi citati ci fosse quello di Majid Shariari, ecco Shariari che proprio un anno prima di martedì veniva ucciso nelle strade di Teheran, uno scienziato legato al programma nucleare. Insomma, questa vicenda è fortemente condita da zone a dir poco d'ombra e da attività che vengono fatte risalire ai servizi occidentali. Non c'è dubbio, tra l'altro l'ostilità tra l'Iran e la Gran Bretagna è di lunga data. Sapete, c'è un libro che si chiama Mio zio Napoleone, che fu pubblicato, un libro satirico, fu pubblicato nel 1971 da uno scrittore, Iray Pezeshkhadze, il quale ironizzava sul fatto che in Iran ogni cosa che in qualche modo di male accadesse fosse imputata agli inglesi. È colpa dei britannici, veniva detto. Questa ostilità storica derivante dal fatto che la Gran Bretagna è la potenza coloniale in Medio Oriente si è accentuata dopo con la Repubblica Islamica e soprattutto per il fatto che gli inglesi nel 1953 con gli americani parteciparono all'abbattimento della presidenza di Mossadegh, no, il leader nazionalista iraniano. Da quel momento in poi gli inglesi sono sempre stati un po' imputati di essere un po' dietro tutti i complotti in qualche modo contro la Repubblica Islamica. Ma la cosa interessante è che negli ultimi tempi si era accentuato. Già nel 2009, quando ci fu la famosa onda verde, la protesta di piazza enorme contro la vittoria di Ahmadinejad alle elezioni presidenziali, gli inglesi erano entrati nel mirino. Lo erano stati anche prima, per esempio col caso di Salman Rushdie, ma nel 2009 questa ostilità è ripresa in pieno e davanti all'ambasciata britannica c'erano quelli che costituiscono un po' il nucleo duro, il nocciolo duro dell'attività dei militanti iraniani, i Basiji innanzitutto, i Pasdaran che erano dietro ogni manifestazione, ma in particolare le famose forze al-Quds che sono il braccio operativo esterno delle forze speciali guidate da quel Qassem Soleimani che è una delle stelle in ascesa della Repubblica Islamica di oggi. Ecco, torniamo un momento agli scienziati. L'ultimo anno, anche rimanendo il mese di luglio del 2011, poi un anno fa l'omicidio appunto di Shariari, popolazione, l'opinione pubblica iraniana quantomeno è convinta che sia opera delle forze segrete, dei servizi segreti britannici. Ci sono margini, come dire, è così monolitica questa immagine di attacco che gli iraniani subiscono dall'Occidente all'interno dell'opinione pubblica? Ma diciamo una cosa, è sempre difficile ovviamente poter attribuire a questo o a quel servizio segreto occidentale o gruppo d'opposizione interna l'assassinio di uno scienziato, oppure gli attentati, oppure le incidenti, come vogliamo chiamare, che ci sono stati anche recentemente alla Repubblica Islamica. Facendo un attimo un passaggio a ritroso, ricordo che pochi giorni fa c'è stata un'esplosione a un'installazione nucleare a Isfahan, il 12 novembre c'è stata un'esplosione enorme a una base missilistica in cui è morto uno dei capi dei Pasdaran e altri 20 militari, ci sono delle foto satellitari che mostrano questa base devastata. C'è un dato però che posso dare, nell'ultimo anno gli incidenti a basi militari, installazioni industriali o in qualche modo sensibili sono aumentati di 5 volte. Questo in qualche modo ci dice che qualche cosa sta accadendo dentro questo paese, che probabilmente questo paese, pur negando ovviamente ufficialmente che siano attentati o azioni militari, dice che sempre sono incidenti, che questo paese è diventato un bersaglio forse più vulnerabile di prima. Questo paese al centro, non da oggi, visto la straordinaria storia di tantissimi secoli della Persia, dell'Iran, Alberto Negri lo ha ricordato pochi momenti fa, incastrato pur un grande paese tra tutti i grandi movimenti e migrazioni dell'Asia, la Turchia da un lato e quindi con la fortissima presenza americana, ma anche la Siria, l'Iraq e poi appunto il Pakistan e la Russia a nord. Gli iraniani ancora poche settimane fa ritornavano a chiedere il riconoscimento dei danni di guerra per l'invasione del 41. Allora furono sovietici e britannici uniti in una sorta di coda del Great Game in Asia centrale a invadere Teheran, che era un paese neutrale in fondo come la Spagna, ma che aveva ben altri spazi, ben altri interessi. Ecco, l'Iran dunque ha una sicura legittimità storica nell'essere preoccupata dai movimenti dei suoi grandi vicini, dagli interessi dell'Occidente. 30 minuti in cronaca. Insomma, se l'Iran ha delle sicure ragioni di preoccuparsi, di che preoccuparsi lo hanno anche i suoi avversari. Più di una volta il presidente Ahmadinejad ha parlato della distruzione di Israele, ha minacciato appunto di scatenare le sue forze armate. Credere che il programma nucleare iraniano, un paese così ricco di altre materie prime, di idrocarburi, sia orientato alla pace, francamente suona un po' difficile. Alberto Negri, da un punto di vista appunto degli altri, delle paure degli altri, l'Iran rappresenta, a tuo avviso, una vera minaccia? L'Iran rappresenta storicamente un'isola dentro il Medio Oriente. Perché? Perché è un paese sciita, musulmano sciita, da paesi sunniti, è un paese che si è sempre contrapposto, essendo persiano, all'espansione per esempio degli arabi, e anche quando fu invaso e accettò l'Islam, fece un Islam, come dire, nazionalista a modo suo, in qualche modo per differenziarsi dagli arabi. Questa storica contrapposizione, prima citavo la guerra contro l'Iraq, ma potrei citare anche la questione afghana, l'Iraq contemporaneo, da cui tra l'altro il 31 dicembre gli americani dovrebbero ritirarsi. Ebbene, tutto questo ha fatto sempre sì che l'Iran volesse e se perseguisse una politica autonoma nella regione, tanto più con la Repubblica Islamica. Quali preoccupazioni può avere e può suscitare l'Iran? Certamente i vicini, soprattutto le monarchie del Golfo, lo temono moltissimo, tanto è vero che sostennero Saddam Hussein durante la guerra Iran-Iraq negli anni '80. Temono l'apparato militare iraniano, temono la sua anche potenza economica, temono il fatto che è un paese di quasi 80 milioni di abitanti, temono insomma che l'Iran possa destabilizzare i suoi vicini. Quanto alla realtà dei fatti, se poi andiamo a vedere, in realtà l'Iran non ha mai portato guerre ai suoi vicini, ma in realtà è stato attaccato. Certamente negli ultimi 20 anni con la Repubblica Islamica che cosa c'è stato? C'è stato il fatto che l'Iran ha in qualche modo intessuto una rete, un network nella regione medio orientale, l'alleanza con la Siria, che è un paese che si è sempre contrapposto a Israele, famoso capofila del fronte del rifiuto, la sponsorizzazione di gruppi islamici arabi come gli sciiti Hezbollah in Libano, la sponsorizzazione e l'appoggio a gruppi radicali come quelli di Hamas. Insomma, l'Iran ha in qualche modo ha cercato di influenzare fortemente la politica medio orientale attraverso questo network di alleanze. E oggi che cosa affronta? Non affronta più soltanto l'Occidente, gli Stati Uniti o la Gran Bretagna o la NATO, che sta mettendo tra l'altro dei radar e degli apparati antimissili in Turchia, ma sta affrontando qualche cosa di più vasto, cioè una sorta di coalizione sponsorizzata, guidata dagli Stati Uniti, a cui si sono uniti i paesi arabi del Golfo. E questa coalizione in qualche modo loro la sentono molto forte, con una contrapposizione tra il mondo arabo sunnita e il mondo persiano sciita. Questo è il quadro strategico che ci troviamo di fronte oggi, aggravato dal fatto che la crisi siriana potrebbe, se Assad, privare Teheran di uno dei suoi più importanti alleati. Infatti la Siria, che appunto vive mesi così complessi, il rapporto con la Turchia emergente, potenza regionale e ovviamente confinante con l'Iran, che si è espresso in maniera esplicita anche su questo fronte, prendendo una posizione di larga autonomia. Vorrei però tornare un momento con te sull'Europa. Gli europei, quindi colpiti direttamente, diciamo, questo martedì, alla fine hanno deciso di optare per uno strumento che non è quello del ritiro dei 22 ambasciatori, diciamo, UE, dei vari paesi dell'UE a Teheran, ma di quello più classico, richiamo per consultazione e ritorno a Teheran, tant'è che i norvegesi che hanno chiuso subito l'ambasciata l'hanno già riaperta. Ecco, dietro a tutto questo cosa c'è? Ci sono i grandi interessi economici oppure la preoccupazione che una certa linea politica di cui l'Inghilterra, il Regno Unito in fondo si è fatto anche esplicito portatore anche rispetto alla Siria, insomma, possa portare a una situazione di non ritorno sul fronte militare? Ma innanzitutto il giorno per esempio dell'attacco all'ambasciata britannica alcuni diplomatici inglesi sono stati fatti, come dire, in salvo da due automobili, una italiana e una francese che sono usciti dalle rispettive ambasciate che si trovano proprio a Neuf-la-Château, nella stessa strada in fondo alla quale c'è anche l'ambasciata inglese. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una collaborazione, non c'è dubbio, e sono stati gli stessi inglesi a chiedere che gli europei non chiudessero le loro ambasciate. Volevano mantenere e vogliono mantenere comunque un canale sul posto, ed è evidente il motivo. Il motivo è legato sia alle possibili riprese delle trattative sul nucleare e soprattutto per capire che cosa sta succedendo dentro questo Iran, perché l'iniziativa che è stata presa ovviamente con l'assenso di alcune delle autorità del paese è rivelatrice di una lotta interna che c'è oggi, una lotta che contrappone la guida suprema Ali Khamenei e il governo guidato dal presidente Mahmoud Ahmadinejad. Questo è l'aspetto fondamentale, cercare di capire, tenendo comunque aperte le ambasciate, un'antenna che in qualche modo possa percepire, intercettare quelle che sono le lotte di potere interne. Soltanto in questo modo si potrà capire cosa fare con l'Iran nei prossimi mesi, nel prossimo futuro. 30 anni fa l'Iran negli Stati Uniti, l'assalto appunto in quel caso l'ambasciata era quella degli Stati Uniti, l'evoluzione completamente diversa, ben più drammatica, 444 giorni e un tentativo disastroso di liberazione che di fatto accompagnò il declino di Carter e che si concluse invece con l'ascesa di Ronald Reagan alla Casa Bianca. Questo piccolo promemoria per chiederti, Barack Obama e l'Iran, ovviamente vuol dire i rapporti appunto da allora di fatto possiamo definirli negativi, non sono mai stati ripresi, la sede appunto dell'ambasciata americana è chiusa eccetera eccetera, ma ci sono varie modalità di intervenire. Obama, la mia sensazione è che abbia scelto una linea di profilo basso. Ma in realtà gli Stati Uniti hanno scelto una linea che è quella di un paese che oggi comunque migliaia di uomini ancora in Afghanistan, e l'influenza afghana soprattutto nella provincia di Herat e anche in altre parti del paese è molto forte. Devono ritirarsi, come dicevo prima, ricordavo prima, dall'Iraq il 31 dicembre, l'Iraq dove c'è un governo sciita che è fortemente sostenuto da Teheran. Quindi in qualche modo gli Stati Uniti, che sono tra l'altro impegnati anche nella contrapposizione ad Assad in Siria, devono guardare con uno sguardo, come dire, di prospettiva a tutto quello che sta accadendo nella regione. Anche in riferimento alla famosa storia dell'ambasciata nel 79, io ho conosciuto tutti i protagonisti di allora, su questo punto è un po' diversa da quella che è accaduta oggi. Nel 79 gli studenti arrivarono di loro spontanea volontà, fu un comitato di studenti, io ricordo che c'erano dentro Mohsen Khadivar, c'erano Asghar Zadeh, gli ho intervistati tutti questi che erano protagonisti da loro, fu un'iniziativa proprio spontanea, venuta dall'assemblea all'università, fu successivamente che Khomeini prese in mano la cosa. All'inizio l'imam Khomeini disse: prendeteli a calci nel sedere e mandateli via. In realtà poi si accorse durante la giornata che c'era stato un grande concorso di folla, un grande appoggio agli studenti, fece un discorso alla radio in cui disse: gli studenti con l'occupazione dell'ambasciata hanno iniziato una seconda rivoluzione, e qui cominciò tutta la storia. Questo che abbiamo visto è stato un'operazione chiaramente organizzata e chiaramente mirata e diretta in qualche modo a far capire che oggi questo paese si prepara anche a rispondere con tutti i mezzi a quella che potrebbe essere una minaccia anche militare, come aveva paventato Israele nelle scorse settimane. Ecco, e in conclusione, allora abbiamo un po' ripercorso in questi 20 minuti quelli che sono gli interlocutori, gli interessi vicini, ma anche gli interessi globali intorno a questo complicatissimo dossier iraniano. Di fatto, come era immaginabile, abbiamo messo in luce le ragioni per non portare al peggioramento della situazione, dunque a una guerra, ma Secondo te esiste invece un interesse magari impresentabile che invece ha dei vantaggi in un'ipotesi di ulteriore peggioramento delle relazioni tra l'Iran e il resto del mondo, il mondo occidentale, e dunque magari in una via militare, in una soluzione militare a questo dossier? Ma innanzitutto subito dobbiamo rilevare che, per esempio, in campo europeo le sanzioni che sono state varate recentemente non toccano il petrolio. Perché? Perché c'è un gruppo di studio che adesso deve esaminare che cosa fare con le importazioni del petrolio, per esempio, da Teheran. Come si sa, l'Italia e la Spagna, la Grecia importano buona parte dei loro consumi dall'Iran, il 13% per esempio per quanto riguarda l'Italia. Bisogna studiare delle vie alternative. Il petrolio ha un peso, ma hanno anche un peso, per esempio, tutte le commesse che sono state prese dalle società occidentali. Che cosa è successo con le sanzioni? È successo semplicemente che non ci sono più le lettere di credito da parte delle banche e che gli iraniani hanno sospeso i pagamenti. E che gli occidentali dunque lavorano meno anche in territorio iraniano. Alberto Negri, grazie di essere stato con noi. Il tempo è concluso, torneremo sicuramente insieme a seguire questo dossier. L'Iran dunque è sempre al centro della storia e dell'attualità. Un ringraziamento a Peter Bescapè in studio, un saluto a tutti voi. 30 minuti in cronaca torna sabato prossimo alle 19:30.